Diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, diorama, la rubrica in cui incontriamo gli artisti e le artiste coinvolte in Linea d'aria e chiacchieriamo con loro riguardo alle loro opere e al loro abitare i luoghi del festival. Buongiorno, bentornate e bentornati a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici sulla Radio Live. Siamo arrivati ad Aliano, detto anche alieno a causa del suo paesaggio e anche della lingua che abbiamo incontrato, simile per certi aspetti al dialetto della lingua nera di Mordor, secondo alcuni, ma questo ancora è tutto da confermare, in un paesaggio simile all'Arizona per certi aspetti, no? Mentre venivamo qui ascoltavamo i Queens of the Stone Age e tutto sommato ci sembrava che ci stessero, giusto Giovanni? Sì, E sì. siamo venuti a intervistare gli team, diciamo internazionale, ma con maggioranza, con base tedesca, per fargli alcune domande sul loro lavoro e anche su come si stanno trovando qui ad Aliano. So, hello to everyone. Hello guys. How do Hello. you do? Super. Doing really well, yeah. Molto bene, So, molto bene. can you just for people who don't know you and your work, just make a brief introduction of yourself and for every one of you and for the group, for the company. Yeah. Thanks. Okay, so I'm Nina Malotta. I am a part of O Team. I'm actually together with Samuel, we are kind of leading this theater group. And we are based in Stuttgart, in Germany. And we do that, we are leading this or having the group since around 13 years, or I almost have to count back, so I'm not sure, but it's many, many years already. And yes, we love to play in different places, and we don't have like one way of always doing the same, so we really love to be also a bit challenged in what from our own aims. Maybe that's a thing. Ok, quindi Nina guida, diciamo, il gruppo team insieme a Samuel da circa 13 anni. Sono di base a Stoccarda, della quale noi non siamo mai stati, non so tu, No, no, io no. assolutamente. E diciamo, loro non, preferiscono avere un approccio polivalente, diciamo, non un approccio univoco che fa le cose sempre in uno stesso identico Non modo. tradizionale. Non tradizionale, ma approcciare in modo diverso, insomma, a seconda dei vari lavori. Ecco, spero di averci più o meno beccato, credo più o meno di sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Giovanni? Ah, ma infatti in questa occasione di Linea d'Aria ci sono appunto c'è una parte degli O Team e dei Lonsdale's Family. Fantasy. Ah, Where can ok. be found as well, if you want. Ah, ok. Is everyone on the poster as well? Ok. Well, let the guys introduce Yes. themselves. So please, Okay. if you. No, Because if we introduce them, maybe we make mistakes. So it's better that they introduce themselves. So, we're Lonsdale's Fantasy. I'm Kenneth from Lonsdale's Fantasy. And yeah, we're a band based in Porto, one of the best bands in the world. And we're collaborating with these guys. And Niels, who plays the synth, has worked with you guys for how long? Like 10 years. Yeah, also very long. Ok, quindi Kenneth, che viene da Newcastle, vive a Porto in questo momento, fa parte, insomma, guida la band che si chiama Lonsdale's Lonsdale's Family, che è una delle più importanti Family. band del mondo. What kind of genre? Genre. It's like electronic punk. Whoa, Yeah. okay, we will be big fans of you, Great. no? Okay. Il genere è punk elettronico, diciamo, di cui noi siamo assolutamente degli appassionati, essendo dei vecchi punkettari fatti e finiti, almeno per quanto ci riguarda. Sono una delle più importanti band del mondo ed è composta da Kenneth e anche da No, that is not part of the band. Nella. No, Niels. Niels. Niels, okay. Niels, okay. Half Portuguese, half German, right? Ok, Niels che arriverà stanotte e che li raggiungerà. Ok. Possiamo... Ok, next one. Okay. So, I'm Nele, and I'm from Estonia, from Tallinn. And now I am working as an intern with O-Team since 2 months. Ok, Nella viene dall'Estonia e da poco, mi sembra 2 mesi, sta lavorando con gli O-Team. Ok, quindi rimane solo Samuel a questo punto. Ok, last but not least, Samuel, the director, I think. Dr. Hoff. Yeah, in this project there's no real director, I say. It's just chaos. It's just pure chaos. But in O-Team I'm directing often, yeah. And yeah, I'm leading the theater company with Nina, and yeah, I mean it's funny, but we will talk about the project. Yeah, we're going to do. Quindi Samuel, appunto, come dicevamo, diciamo guida la compagnia da 13 anni insieme a Nina e spesso si trova a dirigere, anche se dice che non esiste una regia in senso classico, in senso stretto, con diciamo una fissità di ruoli predefiniti. Okay, but yeah, let's talk about the project. Okay, so okay, go Giovanni, ask a question, and also you are paid for this job. So go on. Okay. Sorry, Giovanni. First I don't Italian, want to mistreat no, you. No, right, no. I was the. I was. There's no problem. First in Italian for our Italian listeners. No, ok, sì. La domanda è molto semplice, vogliamo che appunto ci venga un po' spiegato di cosa parlerà questo progetto artistico, come si formerà, cosa vedranno gli spettatori e soprattutto come verrà tradotto questo progetto artistico, questa performance per gli ascoltatori in radio. So my question is very very simple. Is about what this this performance is about, and how do you think to face the radiophonic translation for the festival? It's two questions. But yeah, I think what it's about. I can start with Also not easy to answer, but it's a bit the story of the project, which is also a bit the story of the festival, so that's quietly, yeah. We wanted to, we met this Kenneth and the band Lonsdales in Porto shortly before, like in 2020, in summer, and we thought, okay, we could work together, and then there was the invitation to the festival, which was meant to be in summer, like, yeah. So in the beginning of the year, we thought, okay, let's meet. We invited them to Stuttgart, and we were meeting to prepare something for the festival in Acetura, where we meant to play in June or July this year. And so this project was made for the festival, and we didn't work together before. And and then the festival was kind of cancelled and delayed and whatever, until now it's happening, hopefully. And we are doing the project and in the same time documenting this whole process. And this is actually the show. What is the show about? Is about this whole journey of us until arriving here, together with O-Team and Lonsdale. It's like a describing this whole journey. And we work with video, we recorded a lot of our work, like of the process, it's documentary, but it's also an opera with a lot of music. I might add that it's not only about the journey that we are did not have yet, because we just arrived now, finally after all these months. It's also that we want to make a very big and like well important for the world opera, and we never did that before, and also we don't know how to do that, and also we are no opera singers, but we want to challenge ourselves with doing an amazing opera. and kind of we fail about that. And also try and get free food as well. Okay, but when you speak about opera, you speak about traditional opera lirica, yeah, or yeah, musical rock opera. No, lirica. Okay. We also we traditional also don't opera. Know. Okay. Mozart. We also don't know. Okay. What's the song that you sing again? It's the Zauberflöte from Mozart. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it's the Königin. Matches perfectly with electronic punk. Yeah, yeah, yeah. Okay, yeah. Forse dovremmo tradurre, certo, dici, ok, sì, vado io, vado io. Vuoi andare tu, pure vado io. Poi aiutiamoci. Allora, Samuel ha spiegato che il loro progetto è nato per questo festival, che però sì, ha avuto dei ritardi, diciamo, delle procrastinazioni dovute a, come sappiamo, all'Apocalisse. Esattamente. E per questo, quindi, il progetto nasce con l'incontro a Porto tra queste due compagnie, diciamo, queste due squadre, e che hanno inizialmente questo progetto era per Accettura, poi è stato cambiato, adesso appunto sono ad Ariano, deve essere per il 2020, poi è stato rielaborato giugno e luglio, esatto, e, però il progetto in sé prende in considerazione il lavoro e quindi le riflessioni che portano ad una dall'inizio di un invito ad un festival poi all'esposizione della loro opera. E quindi infatti Samuel parla appunto di come la documentazione di questo loro lavoro parte dal viaggio che l'ha portati ad Ariano, ma che continua appunto, come sosteneva e ha aggiunto Nina, al desiderio di voler importare, avere a che fare con la creazione di un'opera. Con un'opera nel senso di opera musicale, di opera lirica, possiamo dire, e anche col fallimento nel non riuscire a farle. Quindi in qualche modo il lavoro tratterà una sorta di road movie, insomma, come dire, di road, se non vi dispiace come definizione, della road opera. Potete anche utilizzarlo se vi piace come termine. Di road opera, di road movie, insomma, riguardo proprio il processo creativo dello spettacolo stesso, ma anche riguardo il viaggio in senso fisico, geografico, esatto, che li ha portati qui ad Aliano. Tripping in the geographical sense, not only in the sense of the process of the artistic creation, but also in the sense of road tripping. Okay. Okay. And we've got good Italian sponsors as well. You got good Italian sponsors, like Ferrari. Ferrari. Ferrari. So you reach Aliano. Really? You reach Aliano with a Ferrari. No, they were sponsored by Ferrari. Sponsored by Ferrari, but yeah, with but we what didn't car, get anything. With what car you reached Aliano? Fiat. What model is it? Fiat. So you're sponsored by Ferrari, yeah, but yeah, you came here with a Fiat. Fiat Panda. Yeah. Right, it's like being sponsored by the USA Army and going to a rumble with your bare hands. Yeah, exactly like that. Okay. Very brief. So very se vogliamo tradurre queste due cazzate per gli ascoltatori, però vabbè, insomma loro. Oh yeah, he's our sponsors, yeah. Insomma, Kenneth ci ha raccontato che loro sono sponsorizzati dalla Ferrari per fare questo viaggio, ma sono arrivati Theodore as well. Fiat, e io gli ho detto che più o meno è come essere sponsorizzati dall'esercito americano e andare a fare una rissa a mani nude, esatto, tipo di paragone. Ci stanno facendo vedere degli altri cartelloni di sponsor che hanno, Diadora, Al Jazeera, Lotto, Lonsdale, Lotto, London, Lotto, I'm missing the other ones, I don't know. Insomma, un progetto possiamo Amazon dire Prime. Amazon Prime. Un progetto veramente super prodotto, big production, a kind of Hollywood production. Such you have, but why just a question, with a production like this, with this huge level of sponsorization, why did we go money, so low? Why are you making theater and not a movie? Just humble. We are also doing a movie. Just humble. We're just humble. Okay, you're also doing a movie. Okay. Yeah, we're just really humble. La risposta è perché siamo molto umili e modesti. Oh, Gucci as well. Gucci, Gucci, yeah, ok. Sembra di essere un mercatino praticamente. Ok, troviamo il modo di proseguire questa intervista. Oh, this is important as well. This is important as well. Liano. We have a lot in the film. We have a lot of this three finger like this. Because okay, when we got to the restaurant, the first restaurant, I asked for three coffees, and okay, the woman okay said it's three like this. So the Italians do this. Yeah. Three. So there's a lot of like my three fingers. Wait, there's another one. Okay. Come si dice tra parentesi? Parentesi in inglese. I don't know. Parentesi. Beh, allora questa cosa non la dirò. Andiamo, andiamo avanti. Grazie a tutti. The next question. At this one. No, it's the next question. Ah. All right. Kenneth è molto deluso dal fatto che dobbiamo fare un'altra domanda, ma no, ma Kenneth ha un atteggiamento molto da trapper, molto da electronic punk, esatto, d'altra parte è un membro di una delle band di importanza, se lo può anche permettere. Non è che Lou Reed andava a fare interviste e gli rispondeva così come voleva. No, certo, certo. Così, tu, allora ok, passiamo alla prossima domanda. Tu hai un'altra domanda da... no vai tranquillo, vai. La prossima domanda è molto legata a di solito ai lavori che fanno io team. E infatti una di queste è, date appunto le recenti riflessioni sia filosofiche che antropologiche degli ultimi 20 anni e agli avanzamenti tecnologici nel campo del campo appunto del campo informatico, qual è la funzione e il ruolo dell'artista oggi? E se appunto anche per quanto riguarda il loro lavoro è necessario oggi anche ridefinire il confine semantico della parola autore. Ok, ce le proviamo a tradurla. Per fortuna l'ho già scritta, perché io ho una memoria veramente pessima. So, given the recent philosophical and anthropological reflections of the last 20 years and the technological advances in the field of information technology, what is the function or role of the artist today? And the second question, because I have always the second question, is it necessary to redefine also the semantic boundary of the word author? Alla faccia del bicarbonato di sodio. Spadabam. I think the second question, it's a clear yes. But I think it's also not so much related to the technological changes. I think it's more that we have now a different view. I think also a lot of the old works were not done by one author, but there's the one name standing for it. And I think now we have, some of us have a different appreciation for processes that happen in groups. That's also something that's not only happening in art, it's also happening elsewhere. And I think it's just a different understanding of how things are created. And I think especially in this process here that we did, it was really that we were meeting together and trying to create it together. And that's also what happened. It's more about a process than about an authorship thing. Yeah. Samuel dice riguardo alla seconda domanda, assolutamente sì, è chiaro che è necessario ridefinire il concetto, i confini anche, no, di che cos'è un autore. Questo è un processo che sta avvenendo non soltanto nelle arti performative, ma insomma in tutti i campi dell'arte e della creazione. Lui dice il punto non è tanto interrogarsi sul concetto di autore in quanto tale, non è tanto a proposito di quello, ma il punto è piuttosto focalizzarsi sul processo creativo e come varie persone si mettono insieme per innescare un processo creativo, piuttosto che, ecco, su chi sia l'autore. Ecco, non so se hai qualcosa da... ci siamo, ok. Maybe about what artists are, what you can say. What artists are about? What's the role of an artist today? Wow. Yeah, I mean, and also with in this context, in relation to the festival, but also to the to Ariano, the people here. Well, I didn't want anyone from here to come. Why? I was scared. Okay, la Kenneth dice riguardo alla domanda del, diciamo, qual è il ruolo dell'arte ora, ma anche in relazione proprio agli abitanti di qui, Dariano risponde con un'altra domanda, che è: perché qualcuno di qui dovrebbe mai venire a vederci? And did you answer to this question about the role of an artist? No. Why someone from here should come to see? Not come. No, I don't understand. Not come. He says that he thinks that the people from here shouldn't come to see the show. Shouldn't come. Yeah, to see the because show. He's afraid of these people. Yeah. Okay, so very interesting. Kenneth dice che in realtà le persone di qua non dovrebbero venire a vedere la performance perché lui è spaventato dalla gente che sta qui. So, why are you afraid? It's because of the way they speak, the way they look, the way they. I'm afraid that they're wasting their time. Okay. Ok, ha paura che in realtà perderebbe. Ti sta sprecando tempo. Che in realtà starebbero loro sprecando tempo. Sì. Why you think they will waste their time if they come to see the performance? Long silence. Lungo silenzio. Pausa cecoviana. No, I think they should come, yeah. Ok, no, penso che in realtà dovrebbero venire, quindi questo è, vedete che anche Radio Live serve davvero a ridefinire i confini, le posizioni degli artisti, degli autori rispetto al processo creativo, perché Kenneth, ad esempio, parlando con noi, ha cambiato idea. Questo, insomma, non succede certo tutti i giorni, ma veniamo proprio allo specifico, direi, del rapporto con il territorio. Insomma, io chiederei da quanto tempo sono arrivati, se hanno conosciuto qualcuno, insomma, come sono andate le cose finora, quindi... how many days have you been here since now? We arrived on Sunday. Okay, so it's 3 days. 3 days. And we had dinner with the mayor. With the mayor. With the mayor. Okay. Down there in the tent. So in the tent. And so how are going the relationship with the inhabitants, with the authorities, with the people you met? Pretty nice. Did you did you meet someone that you interact with someone in particular? I don't know. Yeah, there's one old guy with quite bad posture who always tells us about like someone being thrown over the edge of the cliff. Okay. We see him like 5 times a day. He's really friendly. Ok, cioè, dunque Kenneth dice che c'è un signore con un'attitudine un po' gobba che cazzo dice questo? Non capito. It's a story of some guy who came from northern Italy to this village and they threw him over the cliff. Don't know if you saw, but it's really going down. Ok, questo signore like racconta di questa storia di un tipo che veniva dal nord Italia che qui è stato gettato dentro un calanco, che è una specie di canyon, che sono caratteristici di questa zona che sembra un po' l'Arizona per certi aspetti, e questo signore è molto lo incontrano molte volte al giorno ed è molto amichevole, ecco. We also met the president, the mayor from where was it, the mafia guy, Potenza, yeah, and he looks really cool from here, like looking down, he looks really, he has like a little thin mustache. Ha incontrato una persona che aveva appunto una sembianza da mafioso con questo baffo. Ah, ok. Di potenza. Okay. Quindi non possiamo dire né nome e cognome di questa persona perché poi saremo perseguibili dalla legge perché ci potrebbe denunciare. Grazie. Il figlio di modi perseguibili. Vediamo di no. Non voglio morire qui, ma no. And there's this restaurant we went to 2 times. Oh, it's amazing. Quite famous, I think, also, the Contadina Sicina. Okay. It's like the main restaurant of the village. Sono stati 2 volte al ristorante. They give you like 9 courses. Del paese, okay. But we can't really talk to them because we don't speak Italian. They don't speak English. And they maybe they also don't speak Italian sometimes. Romanian, so I think she okay. speaks Italian pretty well. The lady who is serving, she's really nice though. She's from Romania. So until now, it was a difficult, tough relation with the. It's not tough, but it's difficult because you go there, but you can't choose the food. They just serve what they want to serve you. Oh, but come on, it's pretty easy though. And if you don't eat it up, they get kind of. Insist, of course. Dice che i rapporti con il ristoratore non sono stati semplici perché. Non c'è la possibilità di There's scegliersi il proprio cibo, praticamente c'è una sorta di menù fisso e menù familiare. Tua madre gli dice c'è questo da mangiare e se non lo mangi guai a te, ti meno. But we also agree that it's kind of the best food in the world, no? Yeah, best food in the world. Però, take it wrong, però non è un problema questo perché il cibo è tra il migliore che abbiano mai mangiato al mondo, quindi il fatto che non possano sceglierlo non è assolutamente un problema. Ok, un'altra domanda? No, direi al momento no. The cook. Oh yeah, there's a cook from the mayor's dinner. And we really like him. He had a pink bandana. Kenneth dice che c'è il cuoco anche, in cui insomma si trova molto bene, e questo cuoco ha una bandana rosa. Non so, noi credo che lo stia inventando. I asked the chef. Comunque mi piace pensare che sia proprio così. I asked the chef if we could get in by doing this. How do you explain that gesture? I was like, can we come and eat? It means a lot of things. This gesture can symbolize a lot of different. Yeah. I just knew it was Italian and food, like in your can't mouth. What were you saying? Like food. Let's go eat. Yeah. And also they are conspiring, conjuring. Stirring. Yeah. There is some conjuration going over there. Oh, yeah. You know, like in the parliaments, mm-hmm. they always. Nice. Okay, I have another question. Un'altra domanda che è relativa, appunto, noi siamo a web radio, sappiamo che ogni giorno da domenica saremo in giro per appunto registrare le rubriche necessarie al nostro palinsesto, ma ci saranno dal venerdì alla domenica le performance degli artisti che sono stati invitati in questi cinque diversi paesini, e queste performance per voi ascoltatori e ascoltatrici verranno trasmesse via radio. Quindi penso che uno dei lavori che dovranno fare all'interno del processo io, Tim e Lonsdale sarà quello di capire in che modo la loro residenza con le persone qui potrà dare dei cambiamenti alla loro idea di processo, e come poi lo relazionano al dispositivo audio, dato che comunque da quando sono partiti stanno già documentando il loro processo. So, has anything changed in your work during the artistic process and residence here? In relation to the device always talking about the radio. The device means the radio. Yeah. Yeah. So what you think it would be like the translation of the your work for the radiophonic version, mm-hmm. which is one of the goals of the festival in Linea d'Aria. I mean, as we said already, we are recording ourselves everything we do, or almost, and we will also show part of that, like videos. Mm-hmm. We show videos, and as we are making an opera, also having a concert inside. So this is all that is very acoustic anyway. So we didn't really worry about that point. And the video, of course, this is a visual thing. Because it sounds bad. And the sound might be bad. We use the subtitles. You can't do subtitles on video. No. Yeah, I think that's one of the main problems is the language, because it's in English. And we have it subtitled in the show, but we can't put the subtitles in the Google radio. Google Italian subtitles. Yeah, we did it by Google, the subtitles. And that's the only problem. But I think it's not solvable. It's no. Also, I guess that the video material that we chose is, I think it is kind of entertaining anyway. If you don't understand a word, it might be harder. But I think then if people do something and you record it. And you hear them talking and laughing or whatever, trying out, you can have a note of what is happening even without understanding everything. I hope so. That was our hope. Ok, quindi Nina dice che fondamentalmente loro stanno registrando quasi tutto quello che fanno, e che nel corso della performance saranno utilizzati anche video che loro stanno facendo in questi giorni. Il problema principale per quanto riguarda la traduzione radiofonica è che, mentre sono previsti dei sottotitoli in italiano per chi assisterà alla performance qui, per il tipo di materiali che ci saranno, che andranno in radio, che quindi stiamo capendo che sono molto anche di parola, non è possibile mettere dei sottotitoli e questo è un problema non ovviabile. Ma d'altra parte Nina dice che per il tipo di materiale che hanno scelto, che stanno utilizzando, è probabile, ma è il loro auspicio, diciamo, che siano in realtà fruibili, godibili, anche senza capire una sola parola di Parola. quello che è il significato. E questo, insomma, siamo molto curiosi a questo punto ormai di sapere, insomma, come si svilupperà il lavoro. Io non so se hai altre questioni. Io personalmente direi Possiamo che ringraziarli. possiamo ringraziarli. We're very curious about your work and thanks a lot. It's been really a pleasure to have this talk with you. So, see you soon, guys. Grazie. Grazie, Thank you very much. grazie, Molto grazie. bene. Insomma, da Radio Live per questa puntata di Diorama è tutto. Sì, era Arrivederci tutto. al prossimo Diorama. A prossimo. Alla prossima.